America 24 di Mario Platero. Buongiorno, benvenuti all'America 24. Buongiorno Simone, da New York, Mario Platero. Metropolitana semivuota, i portoni dei principali ministeri chiusi, l'Agenzia per l'Ambiente, pensate, è addirittura svuotata. E questo il volto pubblico che abbiamo visto con lo shutdown. Pensate che solo a New York ci sono stati 34.000 lavoratori federali che sono rimasti a casa. Questo è il volto della chiusura del governo americano. Beh, ci sono molte ironie, per esempio alcuni dipendenti pubblici sono stati costretti ad andare al lavoro, ma soltanto per 4 ore e con un unico compito, quello di chiudere gli uffici, chiudere le attività, archiviare i documenti, lasciare i computer, lasciare il telefonino, perché non potranno usare il telefonino, diciamo, di lavoro, e lasciare altre carte che magari si erano portati a casa per lavorare. L'ordine è di interrompere. In totale 818.000 impiegati dello Stato considerati non indispensabili restano a casa. Continua a lavorare la Federal Reserve, continua a lavorare il Dipartimento al Tesoro in alcuni suoi aspetti, per esempio il Secret Service, il Dipartimento della Giustizia, bisogna mantenere l'ordine, l'FBI è al lavoro, molti degli impiegati del Pentagono sono rimasti a casa, ma le forze armate, i soldati invece continuano a lavorare e molto probabilmente però non incasseranno lo stipendio. Colpisce che siano 818.000, ma pensate che è poco meno di un terzo dei 2,9 milioni di dipendenti pubblici che invece continueranno a lavorare. E nonostante tutto, nonostante questo numero sia appena un terzo, pensate che si calcola che l'impatto negativo, il costo per l'economia americana, se questa chiusura del governo dovesse continuare, diciamo, per altre 3 settimane o 4 settimane, come capitò 17 anni fa, l'ultima volta che ci fu la chiusura del governo federale, il costo potrebbe essere di 50 miliardi di dollari. Non sembrano esserci spiragli, anzi il presidente Barack Obama sembra alzare il tiro, ha detto che lui rifiuterà, rimanderà indietro qualunque ipotesi di riapertura temporanea, vuole che si raggiunga un accordo e si chiusa un accordo formale, addirittura ha detto: se mi arriverà qualcosa qui sul tavolo della Casa Bianca, dell'Ufficio Ovale, io utilizzerò il mio veto presidenziale, perché non è possibile fare delle cose temporanee. I repubblicani ovviamente sono sempre più imbarazzati perché non sanno come uscirne, i democratici cercano di trovare un compromesso, la partita resta difficile. Ho con me ai microfoni di America 24 Maurizio Molinari, corrispondente della Stampa. E Maurizio, ma qui il presidente gioca al rilancio, che dici? Il presidente sta tentando di fare leva sulle divisioni interne al fronte repubblicano, lui punta a spaccare le due anime, quella più moderata presente al Senato e quella più estrema presente alla Camera con il fronte dei dipartiti. Ecco Maurizio, è Ted Cruz, questo senatore del Texas, dipartista, che ha annunciato che lui così si taglierà a sua volta la paga e quindi non devolverà in beneficenza quello che è il suo compenso. Beh, lui è stato uno dei grandi animatori, un personaggio nuovo, ma significa questo secondo te che l'America sta sfornando personaggi che forse si muovono verso gli estremi, appunto come Cruz? Tenete presente che il Tea Party è arrivato al congresso con le elezioni di midterm del 2010, poi ha trascinato i repubblicani alla sconfitta nelle presidenziali e adesso siamo a un anno dalle nuove elezioni per il rinnovo del congresso nel novembre 2014 e questo è sostanzialmente l'inizio della campagna elettorale del Tea Party, che vuole deputati, soprattutto un pugno di senatori, ma soprattutto deputati che vogliono testimoniare al proprio elettorato ultraconservatore che hanno davvero messo in scacco la presidenza Obama. Stanno parlando alla pancia degli ultraconservatori. Ecco Maurizio, tu hai sentito prima, ho accennato al volto della capitale, a questi 818.000, ma se i politici litigano, queste persone, queste 800.000 persone devono arrivare alla fine del mese, hanno dei conti da pagare e se non incassano per colpa dei politici, beh, si trovano davvero in difficoltà. Ho parlato prima dell'impatto economico, del fatto che insomma c'è un effetto moltiplicatore, mutui che possono non essere pagati e così via, così via. Ecco, la domanda è questa: ma come mai, Maurizio, secondo te non ci sono state dimostrazione? Cioè, secondo te cosa sarebbe successo se in Italia domani improvvisamente, si dice perché i politici litigano, a 800.000 dipendenti dello Stato o anche a 400.000, voi state a casa senza paga? È nei momenti di difficoltà che esce fuori l'anima del paese. Questo è un paese profondamente anglosassone Nel momento di difficoltà, con 800.000 persone, come tu giustamente dici, a tempo indeterminato gli viene tolta la paga, in una nazione dove si vive sostanzialmente il bilancio delle famiglie è fatto settimana su settimana, io sono stato con alcuni di questi dipendenti federali e quasi piangendo mi hanno detto perderemo 5, 6, 7 mila dollari, l'intero bilancio di un anno per la nostra famiglia andrà a carte 48, eppure non c'è l'elemento della rivolta che ci sarebbe stato in un paese europeo, pensiamo all'Italia, alla Francia o alla Grecia, gente in strada, proteste, manifestazioni, attacchi alle polizie, episodi di vandalismo, i genitori che si stracciano le vesti per i figli e viceversa, non c'è tutta questa passionalità perché in fondo c'è un maggiore rispetto nei confronti dello Stato, c'è la convinzione che in qualche maniera le istituzioni risolveranno la crisi. Questa capacità degli americani di sopportare è davvero stride, insomma colpisce per noi europei che la viviamo in presa diretta. Ci sarebbero mille altri approfondimenti, idee da questa costa atlantica che vive tempi difficili ma resta pur sempre la nuova frontiera. Continuerete a trovarli su america24.com, il sito che vi porta sulla sponda americana. Soprattutto mandatemi i vostri commenti su Twitter, @ Mario Platero. Ed eccoci alla canzone del giorno. L'ultimo è stato il New York Times, una campagna per convincere la commissione del premio Nobel a dare appunto il Nobel per la letteratura di quest'anno a un americano. Ma a un americano molto speciale, a Bob Dylan. La tesi è che Bob Dylan ha scritto delle poesie, non ha scritto soltanto delle canzoni, ha rappresentato la coscienza di un'epoca, addirittura un personaggio che ha vinto un premio Nobel ha costruito alcuni dei suoi libri attorno alla cultura popolare che si era creata attorno a Bob Dylan. Dunque perché non dare questo premio a questo straordinario personaggio del nostro tempo? Il New York Times, ispirandosi a una delle grandi canzoni di Dylan, intitola Knock Knock Knock on the Double Door, bussa bussa alla porta del Nobel, e dunque di Dylan, Knock Knock Knock on Heaven's Door. Mama, take this badge off of me. I can't use it anymore. Getting dark, too dark to see. I feel I'm knocking on heaven's door. Knock, knock, knocking on heaven's door.